Europa 24. Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Un paio di notizie flash ci dicono: già da ieri la Borsa di Milano va chiuso in calo la seconda seduta della settimana che porta alla Pasqua, anche a causa delle notizie di nuove tensioni con la Grecia. Il leader ellenico Alexis Tsipras ha comunicato che per ripagare il debito greco serve una ristrutturazione. Le squadre dei tecnici continuano a raccogliere informazioni sulla rotta Bruxelles e Atene, ha detto tra l'altro uno dei funzionari del governo guidato da Syriza. Tuttavia non ci siamo ancora e dunque i partecipanti al negoziato sono disposti ad andare avanti giorno e notte nei giorni feriali e in quelli festivi, ha detto invece il commissario responsabile Pierre Moscovici. Scatta da oggi l'obbligo di indicare in etichetta l'origine per le carni di maiale, pecora, capra e pollame, una novità che arriva da Bruxelles e che viene salutata positivamente dalle organizzazioni agricole e dalle associazioni dei consumatori, anche se ancora non comprende le carni di coniglio e di cavallo. Una novità storica, commenta la Coldiretti, che giunge dopo gli scandali della carne di maiale tedesca, la diossina, e degli agnelli ungheresi spacciati per italiani. Audizione questa mattina in commissione alla Camera per il ministro Padoan. Sul tavolo il piano Juncker per gli investimenti. Il titolare del Dicastero dell'Economia ha affermato che per l'approvazione definitiva del piano c'è ancora qualche mese di tempo. Ma sentiamo un suo passaggio. Vorrei ricordare che la questione degli investimenti in senso lato, come è stato già ricordato, è una questione emblematica della gravità della crisi finanziaria che per molto tempo ha interessato l'Europa e non solo, e anche ovviamente il nostro Paese. La caduta degli investimenti riguarda sia gli investimenti privati che gli investimenti pubblici e costituisce quindi una vulnus sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, perché la caduta degli investimenti indebolisce la crescita potenziale. Di conseguenza, simmetricamente, far riprendere gli investimenti permette sia di avere un sostegno della domanda nel più breve termine che un miglioramento della crescita potenziale nel medio termine, problema che nel caso dell'Italia è particolarmente acuto, viste la perduranza di ostacoli strutturali alla crescita che datano ben prima dello scoppio della crisi finanziaria. E dunque, dice il ministro, l'intenzione del governo è di avvalersi della nuova flessibilità UE nel modo più efficiente possibile. La Commissione UE intanto riapre i rubinetti dei pagamenti alla Regione Calabria per il periodo 2007-2013. L'esecutivo di Bruxelles ha notificato oggi all'Italia la decisione. Bruxelles quindi procederà entro aprile ai pagamenti di 796 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo regionale e del Piano Operativo Regione, che erano stati sospesi dai primi mesi del 2012. Infine, in molte città europee resta molto alto il livello di inquinamento dell'aria, addirittura alcune città come Berlino, sino al 2011 tra le più virtuose, stanno retrocedendo nella lotta allo smog. A rivelarlo è un rapporto che ha preso in esame 23 città europee. Ciò che si sta facendo per contrastare le polveri sottili e il biossido di azoto, lo studio è sostenuto dalle 140 organizzazioni dello European Environmental Bureau, quindi l'ufficio ambientale europeo. Le più virtuose sono, a pari merito, Zurigo, Copenaghen e Vienna, che hanno ridotto radicalmente il numero di auto in circolazione e sono andate oltre le regole imposte dalla Commissione. Secondo gli stessi dati, anche l'UE può fare di più, con una stretta ai tetti sugli inquinanti a livello nazionale per il 2020, 2025 e 2030. Così racconta Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo. C'è una tendenza alla deregolamentazione, non alla regolamentazione, sul tema della qualità dell'aria, ormai già da parecchi anni. Tant'è vero, questo è il punto dove siamo oggi, che la Commissione europea, nell'ultima parte della Commissione Barroso, ha lavorato per la presentazione di quello che si chiama un Air Quality Package, cioè un pacchetto di revisione delle regole della qualità dell'aria. Business Europe ha mandato una letterina molto carina alla nuova commissione e la nuova commissione ha detto che avrebbe ritirato questo pacchetto della qualità dell'aria e che ne avremmo parlato più tardi. Questo ridimensionamento è iniziato già all'inizio degli anni 2000, è proseguito e oggi non siamo in una situazione migliore. Diciamo che c'è una minore spinta rispetto a una decina d'anni fa. Tra l'altro, la cosa che è molto interessante è che una settimana o due prima della discussione in Parlamento europeo sul piano di lavoro della Commissione, c'è stata una lettera di Business Europe, sempre questa organizzazione Confindustria Europea, nella quale chiedeva di ritirare alcuni pacchetti legislativi. E chissà come mai c'era anche l'air quality. Quindi vediamo che la permeabilità di questa commissione rispetto alle deliberate della Confindustria Europea sono molto grandi. E con questo è tutto per il nostro appuntamento con Europa 24. Naturalmente torniamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.